sono qui. Io sono qui. Io sono qui. Io sono qui. Questa è la mia storia e io sono qui. Voi siete qui. Di Matteo Caccia. I nostri genitori si misero in contatto con un collegio di questa opera, che stava ed è tuttora a Pescara, dove gli dettero la lista delle cose che dovevamo portarci in collegio, tra cui un cospicuo corredo, cosa che ai miei costò non poco sacrificio. Sono Enzo, vivo a Pescara, sono sposato e ho due splendidi figli. Nella vita, dopo la brutta esperienza del collegio, ho fatto il carpentiere edile. Adesso sono in pensione e passo il mio tempo coltivando il mio orto. Quando posso vado a funghi, che è la mia passione. Badate bene, questa non è una storia che parla solo di collegio. Questa è una storia che parla molto di più, che racconta molto di più, che dice molte più cose di quelle che ci racconterà Enzo in questa storia, che davvero fa parte di una sorta di grande diario dell'Italia che non c'è più, dell'Italia degli anni 50, soprattutto di un'Italia rurale, un'Italia molto povera, un'Italia in cui ci sono dei treni lentissimi che non arrivano mai e non partono mai, in cui non c'è del denaro, ma ci sono solo cose per mangiare, ci sono probabilmente animali e verdura. Parliamo di un pezzo d'Italia, del centro dell'Italia, dove adesso ogni tanto magari si va in un agriturismo a mangiare qualcosa, si dice: ma non sarebbe male comprare un casolare qui e venirci il sabato e la domenica. Ecco, 60 anni fa lì ci si viveva e si faceva una grande fatica, e delle volte i genitori, per far studiare i loro figli, li prendevano e li mandavano in collegio. Buongiorno a tutti, questa è Radio 24, io sono Matteo Caccia, ma quello che importa è che oggi raccontiamo una storia bellissima, che è la storia di Enzo. Avete sentito la sua voce, che insomma, come molti spesso fanno, si è messo lì con il suo computer e ci ha scritto un pezzo della sua vita, un racconto che racconti qualche cosa di lui. Voi siete qui, @radio24.it è l'indirizzo a cui ce l'ha mandato. Quindi lui, vi dicevo, parla del collegio, ma parla davvero di quel pezzo d'Italia di quell'epoca. Avete presente quei libri che dicono come si viveva la vita in Italia negli anni 50? Ecco, questo è un pezzo di quella storia. 349-238-6666, se siete mai scappati da un collegio o da qualunque cosa, da una scuola, da una famiglia. Salvo, sono scappato da un villaggio turistico in Sicilia, scrive su Facebook, dove era andato come animatore. Sembrava un campo di lavoro, guadagnavo 500 euro al mese. Pensa Salvo, 500 euro al mese li guadagnavi, e invece Enzo nemmeno quello, eppure in collegio ci è andato. Mi chiamo Enzo, ultimo di quattro figli maschi, di genitori a quei tempi contadini mezzadri, in quanto il terreno che si lavorava non era di nostra proprietà. Abitavamo a Penne, un comune dell'entroterra pescarese, in una casa che oggi definiremmo un rudere, nella quale convivevamo insieme alla famiglia del fratello di mio padre, anche lui con quattro figli. Si esercitava il duro lavoro dei campi in cui tutti collaboravano, compresi noi bambini, in base alle nostre forze, esclusivamente per mangiare. Soldi non se ne vedevano. Nonostante ciò, si conduceva una vita direi tranquilla e spensierata, specie per noi bambini, sempre all'aria aperta, a inventarci nuovi giochi. La vita era quella, non c'era modo di poterla cambiare. Era così per tutti, quindi ci si accontentava. Nel 1954, finita la quinta elementare, con ottimo profitto, avevo l'intento di continuare con la scuola. Ma capitò che un mio cugino che abitava nella nostra stessa casa conobbe un ragazzo che stava in collegio presso l'opera di Don Orione. Era tornato a casa per le vacanze. Lo convinse ad andare anche lui in un collegio, dicendogli che si stava bene e via dicendo. I miei genitori, visto la mia intenzione di continuare a studiare, convinsero anche me. Tanto pensavo, c'è anche mio cugino, dicendomi che poi magari, una volta ultimati gli studi, potevo uscire dal collegio. I nostri genitori si misero in contatto con un collegio di questa opera che stava ed è tuttora a Pescara, dove gli dettero la lista delle cose che dovevamo portarci, tra cui un cospicuo corredo, cosa che ai miei costò non poco sacrificio. Arrivò il giorno stabilito della partenza. Con il trenino da Penne andammo a Pescara, in questo collegio dove di ragazzi oltre a noi ne arrivarono tantissimi. Lì dettero a ognuno di noi la propria destinazione. E fu allora che cominciò il dramma. Io pensavo di andare insieme a mio cugino, ma non andò così. A lui, avendo 5 anni più di me, lo mandarono in provincia di Pavia, mentre a me mandarono a Velletri. Ci rimasi molto male. manda così. Siamo partiti io e mio cugino pensando che andavamo insieme, invece poi ci hanno separati e lì è stato il primo colpo. Poi quando sono arrivato in collegio lì ho visto che non era il posto per me, perché ero abituato in campagna a pascolare le pecore, a trovare i nidi degli uccellini, a scorrazzare per le terre, insomma, quindi lì stavo proprio come in prigione. Mio padre mi accompagnò in questo collegio, ma al momento del distacco cominciai a piangere a dirotto e lui mi lasciò lì a malincuore. Piansi per diversi giorni. Mi sentivo come un uccellino vissuto in libertà e poi finito in gabbia. Fintanto che il direttore, vista la situazione a mia insaputa, comunicò ai miei di venirmi a prendere. E così fu. Quando vidi mio padre, il pianto di tristezza si trasformò in un pianto di gioia. E quando mi disse che mi avrebbe portato a casa, feci salti di gioia. Potevo finalmente riprendere la mia vita in libertà. Ma durò poco, perché tornati a casa, mia madre cominciò a dire: «Lì stavi bene, bello dentro, mentre qui, se vuoi andare a scuola, devi fare tanta strada, devi uscire, l'inverno fa tanta neve, il fango, la pioggia, e poi ci ha fatto spendere tanti soldi per il corredo», e via dicendo. Tanto che mi martellarono, mi convinsero a tornarci, ma non si sapeva ancora se mi avrebbero ripreso. Allora mia madre convinse mio padre a tornare lui al collegio per chiedere se avessero voglia di riprendermi. Mio malgrado, la risposta fu positiva. Così, non so come, a quei tempi, lui comunicò la notizia a casa dicendo che per non affrontare nuove spese per un viaggio, di mettermi io da solo sul treno, che da Pescara partiva alle 3 di notte, arrivava a Roma verso le 10 e lui mi avrebbe aspettato lì. Tanto ne fu, ma non venne uno dei miei ad accompagnarmi a Pescara per mettermi sul treno, dato che quel giorno era venuto a Penne un lontano parente che la sera tornava a Pescara, così, sempre per risparmiare, fu dato l'incarico a questo signore di mettermi sul treno. Ma non fu così. Arrivati alla stazione di Pescara, che erano circa le 21, dopo aver fatto il biglietto, questo signore chiamò un facchino e dette l'incarico a lui di mettermi sul treno. Anche perché portavo il mio famigerato corredo avvolto in un vecchio lenzuolo legato con delle corde che era abbastanza pesante per me. Mi disse di dargli qualche soldo, che qualcosa in una borsetta di panno insieme a qualche cosa da mangiare me l'avevano messo. E bello bello se ne andò. C'era la sala d'aspetto con delle panche di legno, non c'era nessuno. Rimasi lì da solo. Dovevo aspettare tante ore. Delle lacrime cominciarono a scendermi sul volto. Mi sedetti su una panchina e tanti pensieri mi passavano per la testa. Avere lasciato di nuovo, e forse per sempre, la mia famiglia, la mia casa, per tornare in quella gabbia, mi rattristava. Preoccupato anche del fatto che, se arrivato a Roma, non avessi trovato papà, che cosa avrei fatto? It's not time to make a change. Just relax, take it easy. You're still young, that's your fault. There's so much you have to know. Find a girl, settle down. If you want, you can marry. Look at me, I am old, but I'm happy. I was once like you are now, and I know that it's not easy to be calm when you found something going on. But take your time, think a lot. Ancora adesso non trattengo le lacrime al solo ricordare quei momenti. Dopo aver pianto per un bel po', tirai fuori dalla borsetta un panino che mia madre mi aveva preparato. E poi, dopo mangiato, cominciò a sopraggiungere il sonno. Misi la borsetta come cuscino e mi allungai sulla panca. A un certo punto mi sentii scuotere. «Dai, svegliati ragazzo, devi salire sul treno!» Era il facchino. Il treno era fermo, lì, pronto per partire. Salimmo ed entrammo in uno scompartimento vuoto. Lui mi sistemò il fagotto in alto, dove si mettono le valigie, e mi salutò dicendomi «Buona fortuna, ragazzo!» E se ne andò. Di lì a poco il treno s'avviò. Fermava in tutte le stazioni, ma non saliva quasi mai nessuno. Poi, verso Popoli, salirono diverse persone, di cui quattro si sedettero di fronte a me nello scompartimento. Parlavano tra loro e mi guardavano, fino a che uno di loro mi chiese: «Ma tu sei da solo?» «Sì», risposi. «E dove vai?» «A Roma», dissi, «c'è papà che mi aspetta». Ma quel bagaglio è tuo? Continua lui. Sì, risposi. E poi mi disse: lo sai, vero, che a Sulmona devi cambiare? No, risposi. Questo treno non va diretto a Roma. A Sulmona devi cambiare. E come fai con quel grosso bagaglio? Io mi limitai ad alzare le spalle, perplesso. Allora lui mi diede una pacca e mi disse: non ti preoccupare, ti aiutiamo noi. Non potetti fare altro che un gesto di consenso e ovviamente di ringraziamento, pensando: e se non c'erano questi, dove andava a finire? A Napoli magari. Insomma, dopo il cambio, verso le 10, il nuovo treno entrò nella stazione di Roma. Con la testa fuori dal finestrino ero tutto intento a cercare di vedere papà. Lo vidi lontano, sul marciapiede, e anche lui cercava di vedermi. E allora gridai: papà, papà! Lui mi sentì e corse verso di me. Fu un momento di gioia immensa. Mi passò tutta la paura, ma l'angoscia di dover tornare ancora in quel collegio rimaneva. Papà se ne accorse, così, per farmi contento, dopo aver depositato il bagaglio, mi portò a vedere prima lo zoo, poi la chiesa di San Pietro. A Roma ci siamo fermati quando sono tornato la seconda volta, e papà, per alleviare un po' il mio stato d'animo, mi portò a vedere la cattedrale di San Pietro, lo zoo, e insomma lì mi sono allietato un po'. Intanto mi disse che non dovevo tornare a Velletri, ma a Patrica, in provincia di Frosinone, in quanto anche gli altri ragazzi a breve sarebbero stati trasferiti lì. Nel pomeriggio prendemmo il treno per Frosinone. Arrivati là, per Patrica, dovevamo attendere l'autobus in un punto dove ne passavano tanti. Mentre aspettavamo, vidi dall'altra parte della strada una bancarella che vendeva le noccioline. Chiesi qualche spicciolo a papà e andai a comprarle. Appena avuto il cartoccio in mano, sentì papà che mi chiamava: Enzo, il nostro autobus! Di corsa attraversai la strada e salii sull'autobus, che era lì, fermo, e che subito ripartì. Solo che io non vedevo papà. All'improvviso il bigliettaio mi dice: biglietto! E io: ma quale biglietto? Dove sta papà? Gli dico piangendo. Ma dove devi andare? A Patrica, risposi. Allora era quello dietro di noi, non era questo l'autobus, ma non ti preoccupare, tanto comunque passerà di nuovo di qua. Così mi fecero scendere e piangendo mi misi a correre all'indietro con le noccioline in mano. E di lì a poco, fortunatamente, arrivò l'autobus che si fermò e sopra c'era papà. Pensai: ma tutto a me deve capitare. Arrivammo a Patrica, un piccolo paese in cima ad una collina sui Monti Lupini, fra boschi di castagno. Arrivammo al collegio, un fabbricato enorme. Collegio Apostolico Leoniano, così si chiamava. Tornatovi dopo una trentina d'anni, non c'era più, era stato demolito. Rimasi in quel posto per un anno e mezzo, il periodo più brutto della mia vita, tanto che i miei superiori ne presero atto e alla fine mi mandarono a casa. Finalmente la fine di una brutta esperienza che però mi ha segnato per sempre. Non voglio incolpare oggi i miei genitori, pensando che comunque lo avessero fatto sicuramente per il mio bene. Ma alla fine mi hanno fatto del male, perché poi a scuola non sono più andato ed è finita così. Well, if you want to sing out, sing out. And if you want to be free, be free. 'Cause there's a million things to be, you know that there are. And if you want to live high, live high. And if you want to live low, live low. 'Cause there's a million ways to go, you know that there are. Can do what you want, the opportunity's on, and if you find a new way, you can do it today, you can make it all true, and you can make it undo, you see, ah, it's easy. Ha una faccia bellissima Enzo nella foto che ci ha mandato e che trovate sulla nostra pagina, ovviamente radio24.it, la pagina di Voi Siete Qui. È bella perché lui è tipo che vabbè, fammi sta foto, ok, fammi sta foto. È un primo piano proprio primissimo. Enzo ha i capelli grigi, quasi bianchi, e gli occhi verdi, quasi trasparenti. Pronto Enzo, buongiorno. Buongiorno. Come stai? Bene, bene. Grazie mille per la tua storia, che sembra, è veramente di metà del secolo scorso, ma sembra una storia scritta da Dickens quasi, sembra una grande epopea di un giovane ragazzo che scopre la vita. È vero, sì, purtroppo è tutto vero. No, questo si guarda, si sente benissimo, Enzo, ed è per questo che ti ringraziamo per la condivisione. Partiamo dall'inizio. Allora, il comune di Penne dove si trova esattamente? Nell'entroterra pescarese. Ah, ok, quindi è provincia di Pescara. La montagna è la provincia, diciamo, è Pescara. Ma quanto dista la Pescara? Mezz'oretta, un'oretta? Trentina di sì, una mezz'oretta. Ah, ok. E adesso tu vivi lì ancora? No? No, dopo l'età di 17 anni, come ho raccontato nella storia, lì si lavorava solo per mangiare, esclusivamente per mangiare, perché i soldi non se ne vedevano. Non se ne vedevano. E invece giusto per ricomporre un po' i pezzi geografici della storia, appunto Penne dove sei nato, invece Patrica è in provincia di Frosinone, giusto? Sì, nell'entroterra del Frosinone pure, sulle Monti Lupini, ma non mi ricordo. Monti Lupini, cioè, certo, sì, che non è poi lontanissimo da Latina, ho scoperto guardando il... Ma questi, ma da bambino non ero. Beh, immagino. Cioè. E lì hai fatto un anno e mezzo? Sì, un anno e mezzo. Sì. Ma in un anno e mezzo, Enzo, quante volte tornavi a casa? Sono stato solo dopo il primo anno in vacanza. In vacanza in estate? L'estate, sì. Quindi anche a Natale stavate lì? Sì, sì, anche Natale, sempre. Ed era solo scuola e chiesa. Certo. E stavate, com'era? Stavate in camerate, condividevate tutto? Sì, un camerone grande, con dei lavatoi, con tanti cubinetti dove la mattina ci si lavava. Era una vita che per me era completamente il contrario di quello su cui ero abituato. Enzo, ma adesso, passati tanti anni, riesci a spiegare che cos'era che proprio non sopportavi di quel tipo di vita? La convivenza, la coercizione, il dover stare chiuso in un posto? E non stare chiuso, ero abituato a stare in campagna, a correre dietro agli uccellini, a pascolare pecore, come avevo chiuso là dentro, mi sentivo proprio come... stare in carcere. Quindi tu ti ricordi benissimo quando ti hanno detto: Enzo, dai, vai a casa. Sì, ma per fortuna che poi lì c'era un direttore, diceva ogni tanto, spiegava, dice: qui chi prende 8 in condotta si fa il fagotto, ossia se ne torna a casa. Tu facevi di tutto per prendere 8 in condotta a quel punto. quasi alla fine sì. Poi infatti ho preso 8 e allora mi sono preso coscienza che mi avrebbero mandato a casa, io non vedevo l'ora, per la miseria. Cosa hai fatto poi? Appena sei arrivato a casa hai cominciato a lavorare i campi, hai ripreso la vita di prima? Ho ripreso la vita di prima, perché poi capito che io tornai a casa alla fine di gennaio del 56. 56, ok. E capito che appena tornato a casa, 2 giorni dopo cominciò tanta neve, che ci fu tanta di quella neve che durò 3 mesi. E allora niente. Certo, mi pare sia anche famosissima la nevicata del 56, sia proprio un pezzo di storia di questo paese. Enzo, invece, perché non ho tantissimo tempo, poi cosa hai fatto in questi 60 anni, da allora ad oggi? Dunque, poi ripeto, siamo stati a Penne fino al 60. Sì? Poi siamo venuti a Pescara in cerca di lavoro, abbiamo comprato una casetta qui a Pescara, così abbiamo cominciato ad andare a lavorare, allora c'era tanto lavoro nell'edilizia. Ok. Quindi... ho imparato il mestiere di carpentiere e alla fine è andata bene anche così. Ma ok, quindi sei stato carpentiere, sei in pensione adesso, giusto Enzo? Sì, sto aspettando un anno adesso. Senti, quando ascolti la radio, in che occasioni della giornata l'ascolti? Durante il giorno difficilmente, il giorno quando vado a fare il pisolino dall'1 alle 2, alle 3, se no anche la notte a volte mi sveglio, mi metto le cuffiette e sento molte repliche di certo. E allora mi è venuta in mente l'idea di dire, ma io pure c'ho una storia. Quindi l'hai scritta apposta per noi, non l'avevi già, non hai un memoriale, Enzo? No. L'hai scritta apposta. Guarda, ti ringrazio davvero tantissimo, Enzo, è stato un piacere fare questa chiacchierata e leggere la tua storia, grazie ancora. Ti immagini il piacere che è stato per me nel poter raccontare tutta questa storia che mi viene da piangere ogni volta che lo racconta qualcuno. Bene, Enzo, grazie ancora, in bocca al lupo e buona giornata. Altrettanto a voi. A presto, ciao, arrivederci. Ciao. E alla fine, dalla storia di Enzo, ho capito un po' di cose. Ho capito che, primo, le storie di ricchezza si somigliano tutte, ma quelle di povertà sono diverse tra loro. Secondo, prendere treni da bambini è una delle cose più spaventose della Terra. Terzo, arrivare in una città enorme da bambini te la fa sembrare o un paradiso o un inferno. Quarto, quando i bambini non vogliono fare qualcosa, a volte hanno ragione. E soprattutto quinto, quando i bambini non vogliono fare qualcosa, a volte bisogna ascoltarli. Questa è una di quelle puntate che rimangono e che vengono davvero raccolte in questo grande bacino di storie di Voi Siete Qui e che spesso alla fine dell'anno diventano un ebook. Quindi se vi siete persi gli altri, intanto andate sul sito di Radio 24, li trovate tutti, sono tre, potete scaricarveli gratuitamente attraverso il sito e attraverso Ultima Books, che ci ha aiutato a crearli. L'ultimo messaggio che è arrivato è un messaggio di Pietro a proposito di luoghi da cui siete scappati, anche se Enzo non è proprio scappato, però alla fine in qualche modo è riuscito a farsi cacciare da quel collegio. Pietro: da bambino sono scappato da un campo scout, questo che va anche per Paolino e per Tiziano, che lo conoscono bene l'ambiente, dove mi sentivo una nullità perché non sapevo accendere il fuoco. Non so, voi che siete stati scout probabilmente avete vissuto questa esperienza. Grazie a tutti quelli che hanno reso possibile questa puntata: Miriam Lucchetti, Paolino Corleoni e Tiziano Bonini. Io ringrazio davvero tantissimo Enzo per averci raccontato e per aver chiacchierato con noi. La storia di oggi era la sua e anche lui è un punto rosso su una mappa. Sara, vivo a San Patrignano. Sono Giordano, vivo a San Patrignano e la storia di domani è la nostra. Parla di un percorso di recupero e di rinascita. Questa è la nostra storia e noi siamo qui.